Ho il piacere oggi di rincontrare Claudio Borgianni, presidente della Fondazione Entroterre, in occasione della presentazione di Sport Festival, una importante e innovativa, nuova serata che avrà luogo il 14 settembre sera al Teatro Comunale Nuovo. Sì, iniziamo esatto con questa serata nuova, con un format che, come dicevo prima in conferenza stampa, un talk e show. Si dividerà in due parti, in cui una prima parte in cui si dialogherà con alcuni ospiti del mondo del cinema, del mondo dello sport, del mondo musicale, su tutti quelli che sono i temi di sport femminile, di innovazione, e una seconda parte in cui uno spettacolo teatrale che ci porterà invece nel mondo proprio del dibattito, ovvero dei temi della parità di genere nel mondo dello sport. Infatti questa serata avrà come motore alcuni valori importanti che saranno intorno alla parità di genere sostanzialmente. Certo, perché si parla spesso di sostenibilità, ormai è una parola che tutti utilizziamo, ma sostenibilità all'interno ha un punto centrale che sono i diritti. Eguali diritti, parità di diritti è fondamentale. E oggi purtroppo il mondo dello sport non è per le donne lo stesso parità che per gli uomini. Prima in conferenza hai parlato anche giustamente del concetto di accessibilità ai teatri. Sì, questo è un grande tema che credo che andrebbe veramente un po' approfondito, perché i teatri oggi non sono molto accessibili, ma non tanto per quello che riguarda il mondo dell'handicap, delle difficoltà fisiche, ma proprio nella dislocazione, negli orari, nella proposta culturale. Questo è un evento che è stato raccolto, e ringrazio molto il Teatro Comunale, il sovrintendente Fulvio Macciardi, perché ha colto al volo l'occasione di poter portare un pubblico nuovo, magari un pubblico che per alcuni è la prima volta dentro a questo luogo, che ricordiamo, il Teatro Comunale Nouveau è un nuovo spazio a Bologna appena aperto. Sì, in effetti è una cosa veramente strana pensarsi questo crossover, come l'hai definito tu, tra sport e mondo dello spettacolo. D'altra parte sport e le espressioni artistiche sono tutte espressioni umane, quindi in qualche modo sono interconnesse. Fra l'altro tu dicevi, Bologna è una città talmente ricca di iniziative che ci si può permettere anche di sperimentare qualcosa di nuovo. Sì, io mi capita spesso di essere in taxi e il tassista dice: ah no, a Bologna c'è troppo. E in realtà questa è una grande ricchezza, l'ho sempre vissuta, perché è un luogo in cui c'è materia per mescolare. Certo. Benissimo, quindi appuntamento il 14 alle 20:30 al Teatro Comunale Nouveau, che è quello in fiera, specifichiamo. Esatto, vi aspettiamo. Ciao, grazie. Ciao.